Cari amiche, cari amici, benvenuti a Radio Alma, Bruxellando, martedì ai microfoni questa sera per una nuova, ricchissima, ve lo posso assicurare, puntata di Bruxellando. Salutiamo per la parte tecnica Dani M. Buonasera a tutti. Salutiamo il nostro George che, ahimè, è ancora ammalato. E George, i nostri migliori auguri per una pronta, veramente rapida guarigione. E speriamo di averti quanto prima in studio qui con noi. Prima di passare, abbiamo due ospiti questa sera al telefono, scusate, due ospiti, uno al telefono e uno che è già in studio con noi, volevo salutare tutti coloro i quali hanno scritto, soprattutto nelle ultime ore a Bruxellando e alle quali prometto una risposta nelle prossime ore, quindi non temete, Bruxellando è con voi. E ci tengo già immediatamente a ricordare un evento, Ballando Ballando sulle note della primavera, che è una grande serata italiana organizzata dal gruppo musicale I Diamanti, che avrà luogo il prossimo 29 marzo, quindi dalle 19 alle 24, presso la Sala Aurora, una sala anche abbastanza conosciuta, Chaussée de Mons, quindi 1070, credo debba essere Anderlecht. La serata è organizzata dalla VAI, Volontarie Assistenza Italiani, e il ricavato della serata sarà proprio devoluto all'associazione medesima. Per quanti volessero saperne di più, per quanti volessero partecipare, vi invitiamo a scrivere a vai.belgio@gmail.com. Il costo del biglietto è veramente minimo, solo 10 euro, e per i bambini di età compresa tra i 0 e i 12 anni l'ingresso è gratuito. Come detto, allora abbiamo il nostro primo ospite in studio. Buonasera. Saluto Sebastiano Nata, che è di passaggio tra l'altro a Bruxelles, quindi questa coincidenza mi rende ancora più felice, perché avere un ospite in studio, come potete immaginare, arricchisce sempre di più l'intervista. Sebastiano, quindi benvenuto a Bruxellando, benvenuto a Radio Alma. Grazie. Allora, io sono molto curiosa, insomma, abbiamo un po' parlato prima dell'inizio della trasmissione, hai veramente tante storie da raccontare molto interessanti, quindi ti chiederei di presentarti ai nostri amici all'ascolto, di presentare un po' te e magari anche già la tua scrittura. Allora, sono Sebastiano Nata, sono tanti anni che scrivo e diciamo ho coltivato questa passione sempre lavorando perché come gli ascoltatori sapranno e noi scrittori sappiamo, salvo pochissime eccezioni, è impossibile vivere di sola scrittura, però insomma questa è la mia grande passione, a questo ho dedicato e continuo a dedicare tutto il mio tempo libero, gran parte del mio tempo libero, le vacanze, e poi c'è anche, diciamo, un fermo impegno con me stesso a dedicarmi pienamente alla scrittura fra poco. Sono sposato con una brasiliana, ho tre figli, uno nato in Brasile e due a Roma. Tifano per il Brasile due su tre, quindi sono diciamo in minoranza in famiglia. E nei miei romanzi ho scritto molto del mondo del lavoro perché da tanti anni lavoro per delle multinazionali, quindi sono stato in questo fortunato perché ho avuto un'esperienza e continuo ad avere un'esperienza diretta con diciamo, le società che un po' determinano, direi in parte, le sorti dell'economia mondiale e, cioè, non naturalmente solamente la mia società, però capisco quali sono i meccanismi, diciamo, che muovono queste società e soprattutto direi anche come le persone che lavorano all'interno di queste grandi e potenti strutture affrontano i rapporti di lavoro e anche i rapporti con la società stessa. E specie in questi anni di crisi, è chiaro che non sono rapporti facili, anche per le persone che riescono a continuare a lavorare con successo. Beh, il tema del lavoro è uno dei temi ai quali Bruxellando negli anni ha dedicato ampio spazio e interesse, perché sappiamo che il lavoro, insomma, è anche una fonte indispensabile per il sostentamento di ciascuno. C'è una frase molto, molto bella, o comunque significativa, che tu scrivi nel romanzo, e vorrei leggerla. E mi riferisco a quello che dicevi proprio poc'anzi. Il romanzo, magari lo vogliamo dire qual è? Sì, diciamo, scusami, sì, vedi, mi sono fatta prendere. Quindi La Mutazione, stiamo parlando della Mutazione, edito da Barni Edizioni, e salutiamo anche, cogliamo l'occasione per salutare il nostro Simone Marchi, che come sempre ci dà suggerimenti di lettura veramente straordinari. Quindi sì, presa già dall'emozione di leggere il libro. Allora, citerei una frase che tu scrivi che fa proprio riferimento a quello che tu dicevi. Lei, Giovanni, ha le caratteristiche di umanità e di esperienza per essere un leader straordinario. Lavoreremo un po' insieme per mettere a punto dei dettagli, ma lei la stoffa ce l'ha tutta. Le aziende, Giovanni, hanno bisogno di persone come lei, autentici leader moderni, non caporali del passato, guide per il futuro. Lei, Giovanni, per tanti sarà una guida. Questo, diciamo, è il gioco delle parti e il gioco della seduzione che spesso c'è tra il capo ed i collaboratori, anche diciamo collaboratori di altissimo livello come il protagonista del mio romanzo, perché nelle società che, per usare una frase utilizzata anche in altri contesti, diciamo, producono valore, e questo valore è creato diciamo dall'intelligenza, dall'esperienza delle persone che sono all'interno di queste aziende, è essenziale diciamo tenere altissima la motivazione. E questo non è sempre semplicissimo per una serie di motivi. Un motivo è senz'altro che, diciamo, c'è una pressione verso i risultati che può poi, diciamo, rendere difficile mantenere una stima di se stessi, e poi anche perché per molti manager, come anche il protagonista del mio romanzo, è difficile dedicare tutta la propria vita, perché poi alla fine in molti di questi posti si lavora più di 12 ore al giorno intensamente, dedicare tutta la propria vita sacrificando anche rapporti personali, rapporti familiari, altre passioni, a un organismo che è focalizzato solo a massimizzare i profitti. E allora si cerca, a volte anche in buona fede, di arricchire questa missione con altri obiettivi, che nella maggior parte dei casi, anche se non sempre, però sono motivi secondari. E il, diciamo, quello che succede, se posso dire così magari in due parole la storia del libro, il libro si svolge senza svelare troppo, no, il necessario, esatto, non svelerò niente, ma diciamo il libro si svolge in una notte, solo in una notte, tutto in una notte, a Miami, dove questo, diciamo, questo alto dirigente italiano stava per la convention di fine anno, che spesso si organizza in posti che sono considerati belli, eccetera. E in questa notte lui fa un po' i conti con la propria vita, perché si rende conto che la sua stella, diciamo, aziendale, nonostante tutti i suoi sforzi, è un po' in declino, che forse il massimo traguardo che lui a un certo punto della sua carriera si è sentito di agguantare, che è quello di diventare il capo dell'Europa, gli sta sfuggendo, e soprattutto si rende conto che al lavoro ha sacrificato moltissimo, soprattutto in termini di rapporti con i suoi figli, con l'ex moglie, adesso con la nuova compagna. E quindi, diciamo, da una parte si sente sconfitto in termini aziendali, e dall'altra gli monta dentro questo desiderio di diventare un po' di diventare un'altra persona, che adesso, diciamo, qui forse sembra una cosa banale, ma diciamo gli matura dentro l'interrogativo se è giusto continuare a vivere come ha vissuto per gli stessi valori, il successo, la carriera, e comincia a rendersi conto che forse è più importante puntare su altre cose, almeno, diciamo, puntare veramente su altre cose, anche se poi in quasi tutti i casi bisogna continuare a lavorare. Allora, da questa tensione tra diciamo il sentimento profondo della sconfitta e una possibilità di giocarsi la vita più su rapporti così d'amore che non di potere, diciamo, si svolge un po' il romanzo. E c'è un finale che io naturalmente non rivelo che, però quello che posso dire è che sembra un gesto totalmente folle, ma che forse è invece il primo gesto di saggezza. Non ne posso più di questa corsa per il fiato, di queste battaglie, di questo desiderio di vincere, a costo di farmi scoppiare il cuore. Questo diciamo, è un po' tutto il libro si svolge cioè, in prima persona, quindi lui parla a se stesso. Giovanni Breni, diciamolo Sì, così. il protagonista è Giovanni Breni, diciamo, l'ultima parola però del romanzo, questo si può dire, tanto non si svela niente, è ascolto. Cioè lui attraverso questa maturazione accelerata, da cui appunto il titolo La mutazione, lui passa da un parlarsi addosso affannato alla capacità di ascoltare quello che c'è di fuori, al di fuori del mondo aziendale, che per lui è diventato claustrofobico. E quindi questa frase che tu hai letto, non ne posso più di questa corsa a perdifiato, di queste battaglie, di questo desiderio di vincere a costo di farmi scoppiare il cuore, così diciamo, riassume proprio questo inizio di consapevolezza e anche questa, più che stanchezza, direi, questa diciamo, incapacità esistenziale di continuare a puntare tutto su un successo che poi è vuoto. Ecco, una delle cose che io ho imparato e che spero di essere riuscito a trasmettere anche in questo romanzo è che il lavoro dovrebbe essere, come dice tra l'altro anche Papa Francesco, un modo per rendere gli esseri umani più umani. Ecco, in alcune strutture questa diventa una sfida difficilissima e quasi impossibile da vincere perché tutto, diciamo, il focus, per usare appunto un termine aziendale, è spostato su cose che non hanno nulla a che vedere con diventare più umani, ma semmai a cercare di far diventare la società più ricca. E quindi, diciamo, questo è l'equilibrio difficile da raggiungere. Cioè, io personalmente, anche in questo romanzo, diciamo, credo che il lavoro vissuto male può veramente distruggere i singoli e creare dei disastri come anche la finanza ha creato a livello Assolutamente. mondiale. Però penso anche che il capitalismo sia una macchina potente che se guidata male appunto distrugge, ma se guidata bene, cioè se in qualche modo queste capacità che ci sono in queste grandi aziende dove spesso lavorano delle persone straordinarie. Una parte di questo motore viene utilizzato anche per il bene comune, e allora diciamo, forse la storia potrebbe essere un po' diversa. Ci sono vari aspetti che mi hanno colpito del tuo romanzo che non riguardano soltanto poi le confessioni di un uomo, perché queste potrebbero anche essere intese come un momento di cambiamento, per l'appunto, come tu scrivi nel libro, ma c'è un passaggio che mi ha particolarmente colpito perché questo manager si trova anche ad affrontare il cambiamento di gestione, passa da un capo ad un altro, anzi a due. Mi sembra di avvertire che in questo cambiamento non ci sia un miglioramento in quella che è anche la logica aziendale, ma anche ma che al contrario invece ci sia un peggioramento. Credi che, come dicevi prima tu, su queste condizioni di dover migliorare l'economia, la società e tutto il resto, ci sia un'influenza anche da parte proprio di queste grosse multinazionali? Cioè in che modo c'è poi effettivamente un valore aggiunto a tutti questi cambiamenti, alla corsa verso il denaro? Infatti c'è un passaggio anche molto bello per l'appunto nel rapporto che Giovanni ha instaurato col denaro. Ma credi veramente che tutto questo possa fare la differenza? Che avere l'iPhone o avere tutta una serie di cose possa indurci a trovare quella chiave per la felicità? Secondo te? Nella tua domanda c'è già in parte la risposta, Sì, però la però, vorrei un no, po', però ecco. ecco, quella è una. Allora, ovviamente non avendo. Sì. Non avendo avuto esperienze lavorative di questo livello, sono veramente curiosa di sapere l'opinione di chi vive in quell'ambiente, di chi riesce ad essere critico, perché mi sembra di capire che tu riesci a percepire anche delle negatività rispetto anche al tuo contesto di Sì. Sì. lavoro, che non è da tutti. Negatività che credo comunque, forse probabilmente, sono anche intese a migliorare. Sì, la struttura stessa, perché come dicevi tu prima, delle grosse società innanzitutto fanno un fatturato che probabilmente è superiore a tanti PIL di paesi, diciamo, in via di sviluppo, chiamiamoli così, e che riescono veramente ad influenzare le fortune e le sfortune di tanti nostri concittadini. E c'è un passaggio molto bello che potremmo leggere più tardi proprio a proposito di queste scelte che poi influenzano le vite al quotidiano. Ma allora, tu hai citato l'iPhone, io mi sono, diciamo, ho letto tutta la biografia di Steve Jobs, che è una persona, diciamo, affascinante, e quello che lui cercava di fare, lui diceva, se ricordo bene l'espressione inglese, diciamo, a dent in the universe, cioè cercare di, con i suoi prodotti, per esempio l'iPhone o l'iPad, di ammaccare, diciamo, creare un'impronta addirittura sull'universo. E voglio dire, alcuni di questi prodotti ad altissimo livello oggettivamente hanno migliorato e migliorano la vita di tante persone, anche se poi sono talmente potenti che possono essere un'arma a doppio taglio. Però il punto non è, diciamo, quello. Il punto è che avere delle organizzazioni così ben strutturate, dove ci sono tanti uomini talentuosi focalizzati essenzialmente a far fare più soldi agli azionisti, perché questa, certo, è una legge, diciamo, dalla quale non si può sfuggire, diciamo, è pericoloso. Allora ci dovrebbero essere dei contrappesi, perché io credo che, diciamo, la spinta verso il bene degli azionisti non può essere capovolta, però dei contrappesi che iniziano piano piano e che sono quelli che, diciamo, che alcuni governi con successi non sempre meravigliosi stanno cercando di mettere, o anche, per esempio, di nuovo, anche adesso non voglio citare Papa Francesco continuamente, però è di sicuro una persona che ripete continuamente che anche nell'ambito del lavoro l'uomo deve essere il fine e non il mezzo. Ecco, nella maggior parte di queste organizzazioni l'uomo è più un mezzo che un fine, e questo è pericoloso. Anche Steve Jobs, che io anche ammiro per tanti versi, lui era assolutamente ferocissimo nel valutare i suoi collaboratori, perché lui diceva che se non giocava con players di serie A non sarebbe mai riuscito ad avere una società leader, e quindi era tutto finalizzato al successo della società. Ecco, questo non può essere l'unico obiettivo, anche se può essere naturalmente l'obiettivo, certo, principale. Allora spiego meglio quello che volevo dire leggendo questo passaggio, e cito ancora le parole che Sebastiano ha scritto nel suo romanzo. La finanza ha distrutto ricchezze pubbliche e private immense. Ha gettato moltitudini nella miseria. L'Europa è in piena decadenza. La Grecia, il Portogallo, la Spagna bruciano. Si vivrà peggio che in passato. Le ingiustizie e i soprusi tornano a crescere, come agli inizi del Novecento, come in epoche remote. E io seguito ad essere un egocentrico che scruta e analizza le pieghe del suo ombelico. Uno che si arrabatta ottenendo cose piccolissime, sia a Selfin, sia in campo letterario, roba di uno spessore irrisorio se paragonata a chi si afferma sul serio, alle mie ambizioni, a cui non so rinunciare, a causa di una vanità sconfinata. E questo risponde, mi sembra, anche a quello che dicevi proprio poc'anzi, con la tua frase di chiusura, proprio sulla vanità. E mi è piaciuta, tra l'altro, un altro parallelismo che tu hai creato nel tuo personaggio, che è un manager un po' anomalo, un manager scrittore, uno con la passione letteraria. Come mai questa? Beh, qui parlo naturalmente anche un po' di me, che lavoro in una multinazionale e che, diciamo, considero senza dubbio la mia passione principale, anche la cosa che so fare meglio tra tutte le cose che faccio. Quindi non dico che sono un bravo scrittore, ma sicuramente penso di essere più bravo a scrivere che a fare altre cose nell'ambito del lavoro. E tra l'altro adesso, proprio perché non non è che le società adesso devono produrre, che ne so, dei tappi di bottiglia o delle cose semplici, proprio perché in genere i prodotti sono sempre più sofisticati e il modo di metterli sul mercato è sempre più complesso, che diciamo avere delle capacità che vanno al di là delle capacità tecniche, quindi anche una capacità di capire quali sono i desideri dei consumatori in questo caso, e può essere utile. Ma non credo che ci sono degli esempi di manager scrittori, ovviamente, non sono l'unico, però è abbastanza complesso fare le due cose seriamente. Ed è Questo per posso questo che poi. immaginarlo. Però, allora, una curiosità, come mai hai sentito il bisogno di dover scrivere, di dover mettere, di dover inventare, di dover scrivere un romanzo? Perché tu hai esordito tanto tempo fa con Il Dipendente, siamo nel 1997, nemmeno forse tanto tempo fa, però hai avuto un'accoglienza straordinaria della critica. Quindi come mai hai sentito questa esigenza? Che cosa ti ha spinto? Che cosa ti ha portato alla scrittura? Ma in genere io scrivo per sciogliere dei nodi. Tra l'altro me ne accorgo man mano che scrivo, perché voglio sempre scrivere, diciamo, dei libri divertenti, e tu, che mi sembra che abbia letto La Mutazione e anche Il Dipendente, diciamo, lì c'è anche un'ironia, però c'è anche una grande angoscia. E il motivo per cui io ho trattato spesso del rapporto tra il singolo e il lavoro, tra la società e l'economia, è perché mi ci sono trovato in mezzo, e spesso le tensioni, le contraddizioni, gli abbattimenti, le cadute nella vanità le ho vissute in prima persona, e quindi poi scrivere un modo per mettere ordine qualche volta, e anche per liberarsi dalle ossessioni, che poi ritornano comunque. Qualcuno diceva che la scrittura cura l'anima, chissà che non avesse ragione. Sebastiano, stai già pensando ad altro? Oppure so che il romanzo è uscito da poco, penso il 28 gennaio, lo scorso, quindi un paio di settimane fa, quindi ti immagino impegnato nella promozione del romanzo. Sì, diciamo, naturalmente cerco di seguirlo, poi ho in mente anche di scrivere altre storie, però adesso sono molto vicino a questa, insomma, e spero che anche chi leggerà la sentirà come una storia che suscita un eco. Io ne sono abbastanza convinto, anche se diciamo, le esperienze raccontate sono quelle di un diciamo, di un mondo particolare, che è quello delle grandi aziende, però il confronto con il mondo del lavoro è qualcosa, diciamo, che hanno un po' tutti, anche se in ambienti molto diversi. Ti sentiresti di dare un consiglio magari ai nostri amici all'ascolto, a coloro i quali iniziano per esempio adesso la loro carriera lavorativa? Sì, diciamo, allora, alcuni consigli. Cioè, il primo è per arrivarci al lavoro bisogna prepararsi seriamente. Quello che dico sempre ai miei figli è che più uno si prepara seriamente, e più si hanno, a parità di altre condizioni, possibilità di scelta. Cioè, quindi si può scegliere un lavoro o interessante e ben remunerato, o ben remunerato e non necessariamente interessantissimo, oppure, diciamo, molto interessante anche se non remuneratissimo. Cioè, quanto più uno sa, a parità di altre condizioni, può scegliere. Poi, una volta che diciamo, si è entrati nel mondo del lavoro, io penso che per fare carriera bisogna lavorare duro e trovarsi qualcuno che ti sponsorizza, in termini buoni, non in termini Certo, mafiosi, sì, qualcuno parliamo del che talento, crede in te, promuovere il talento. promuovere il proprio talento, per non perdere l'anima, perché penso che questa sia anche una sfida diciamo, per tutti. E non prendersi tanto sul serio, non focalizzare la propria vita solo sul lavoro, ma e cercare di vederla in un contesto più alto. Cioè, il rischio di cadere nelle trappole, specie se uno ha talento, di pensare che si diventa superuomini, che siccome diciamo, magari si guadagna anche bene, allora il proprio valore enorme. Questo, diciamo, a parte che non corrisponde a verità, perché non è che il valore di una persona è determinato da quanto guadagna, e poi è pericolosissimo. E quindi, diciamo, se possibile, mantenersi umili e stare vicino alle cose che si hanno a cuore, non a quello che dicono solo i propri capi. Mi sembra essere, Sebastiano, veramente un messaggio molto bello e, come ti ho detto, io penso che questo libro si addica a tante storie di cui ho sentito parlare, a tante persone che ho anche avuto modo di conoscere. In chiusura, perché ahimè il tempo in radio è tiranno, c'è qualcosa che non ti ho chiesto, che vorresti aggiungere, un messaggio, un saluto, una parola in più sul romanzo? Diciamo, forse sul romanzo, perché messaggi certo non le voglio dare. Noi abbiamo parlato anche molto di quello che è l'ambiente economico-sociale. Questa è, di nuovo, è una storia di un uomo che tocca i propri limiti, si sente profondamente sconfitto, si sente che non ha più energie, ma proprio nel momento in cui accetta questo, capisce che forse c'è un'altra strada che può percorrere, e quindi, beh, di nuovo il titolo, La mutazione. D'un tratto guarda l'esistenza con occhi diversi, mentre la sua camera è finalmente invasa dal sole e si prepara a scendere nell'immensa sala dove lo aspettano gli illusori riti aziendali, ha come un moto di ribellione. Di lì a poco farà i primi passi per diventare un altro, l'uomo ancora sconosciuto che da dentro, sempre più vicino, si spinge alla propria verità. Brangolo! Ecco, abbiamo avuto un po' il DJ, versione un po' DJ-esca. Boom, boom, boom, boom! Ecco, quello mancava. Abbiamo bisogno di due persone in regia, così uno fa il fondo, boom, boom, boom, boom, e l'altro Ma fa. dovevo fare l'effetto tipo DJ che scratcha, dai, non l'avevamo fatto finora questa sigla un po' così, un po' alternativa. Ecco, ci lavoriamo ancora. Ecco, finalmente sono tornata, è stata un po' un paio di se... Oh, ma sembra una vita, effettivamente. Un paio di settimane già sembra una vita. Ci sei mancata, Fiordaliso. Grazie, grazie. Cioè, io nel frattempo ovviamente ho letto perché io non posso farne a meno di leggere, però devo anche confessarvi che dato che avevamo un po' di settimane, un po', io avevo un po' di settimane di assenza, quello vuol dire che mi sono anche un po' fatto la cosiddetta scorpacciata di libri ungheresi, di cui non posso raccontarvi perché tanto non riescite a No, leggerli. no. Ecco, bisogna incoraggiare i traduttori di occuparsi di più di certi autori molto divertenti che purtroppo al di fuori dei confini del paese non sono raggiungibili. Questo è un messaggio a tutti i traduttori. Traducete l'ungherese, traducete Esatto, ci l'ungherese. sono dei tesori nascosti che nessuno capisce. Dai, traduttori che Ecco, salutiamo però, dai. salutiamo, certo che salutiamo. Con grande affetto. Con grande affetto. È un lavoro difficile. E quindi volevo, cioè, stasera invece vi ho portato un libro che avevo letto un po', diciamo, durante ancora le vacanze estive e che è molto interessante e anche molto emotiva. Si tratta di Mille splendidi soli di Khaled Hosseini. Cioè, sicuramente non devo presentarvi Khaled Hosseini, anche perché il suo libro Il cacciatore di aquiloni ha fatto un sacco di successo, tutti li conoscono almeno dal nome, anche se non letto. Se mi ricordo bene, hanno tratto anche un film che purtroppo io non ho visto. E diciamo che è famoso dalla capacità di mescolare un po' un'emozione forte con gli eventi abbastanza tragici che sono successi nel suo paese comunque. Cioè, considerando il fatto che il paese è lacerato dalla guerra già praticamente da anni, le ferite si rimarginano molto lentamente, chissà quando si rimargineranno, noi siamo abituati a guardare l'Iraq attraverso gli occhi dei telegiornali, quindi sono delle bombe che scoppiano, un deserto scolorito, la sofferenza, o o comunque delle tragedie mini o grandi con cui ci incontriamo. E uno dei grandissimi pregi di Khaled Hosseini è che di quelle figure, di quelle ombre che ci passano di fronte agli occhi, li trasforma in esseri umani che sono... sono quasi incredibilmente simili a noi, e dico incredibilmente perché proprio questa visione da lontano, questa visione un po' riduttiva della situazione ci conduce a sentire quelle persone aliene, cioè nel senso, cioè, e quindi io lo trovo un grande pregio il fatto che questo scrittore trasformi di fronte ai nostri occhi quelle persone in persone che soffrono esattamente come noi, che fondamentalmente anche loro desiderano la pace, desiderano potersi sviluppare, desiderano una situazione normale in cui uscire per strada e fare le cose come si fanno in pace. Un'altra cosa che io trovo molto interessante è la storia stessa, cioè si tratta di due donne che, di cui sorte si incrocia sotto l'effetto della guerra. Si tratta di Mariam che viene da un villaggio lontano dal capoluogo, e da Laila, che due persone che fanno Mariam fa una vita molto tradizionale, riceve un'educazione di cui la sopportazione è al centro, mentre Laila va a scuola, impara, quindi la sua infanzia è più vicina a quella dell'infanzia di un bambino dell'Ovest Europa, diciamo. Però viene la guerra, e la guerra praticamente distrugge tutto, e queste due donne quando si incontrano quando la guerra oramai, per esempio, ha completamente eliminato tutti i diritti della donna. E loro sono le mogli di una persona fondamentalmente violenta, non molto simpatica, però loro non hanno una scelta. E secondo me questo non hanno una scelta è una delle altre cose che noi non riusciamo affatto a capire, cioè lo sentiamo per esempio il fatto che i diritti delle donne sono ridotte, che eventualmente che non avevano il diritto di imparare, di andare a scuola, ma magari fosse solo quello. Se uno si immagina quella situazione in cui la legge dice che la donna non può mettere fuori il piede dalla casa senza l'accompagnamento di un parente maschile, quello vuol dire effettivamente che non puoi andare da nessuna parte, nemmeno fino all'angolo per comprarti qualcosa, niente. Anche e se eventualmente tuo marito e i tuoi parenti maschili non sono disposti ad accompagnarti, allora rischi addirittura la galera. Se sei malata devi andare nell'ospedale delle donne, che tipicamente era molto peggio fornito, quindi tutte quelle donne che partorivano in situazioni proprio disperatissime, senza accesso nemmeno ai medicinali. E quindi secondo me anche questo è una virtù del libro, perché invece di nuovo metterci di fronte agli occhi una descrizione anche sterile della situazione, ci fa sentire molto bene che cosa vuole dire nella quotidianità l'assenza dei diritti. E chiunque sia, se sia una donna o sia un uomo, è una cosa tristissima, e in quel momento uno capisce effettivamente, capisce il desiderio anche di cambiare certe cose. Quindi queste due donne questo libro fondamentalmente è la storia della lenta liberazione, di tante sofferenze, la lenta liberazione di queste donne, che va per vie che non vi racconto, anche perché non voglio svelarvi tutta la storia. E lo so che alcuni critici di Khaled Hosseini dicono che lui sia addirittura troppo emotivo, cioè non esiste libro suo su cui non ci si piange almeno un pochino, perché è davvero, ha questa capacità di rappresentare così vivamente le situazioni, e le situazioni che descrive non sono mica facili, che comunque davvero c'è una forte emotività. Ma io invece di criticare questo piuttosto lo ritengo un pregio, perché non è mai un'emozione falsa, è sempre un'emozione vera, E quando un libro riesce a trasmettere delle emozioni vere e anche una voglia di cambiare il mondo, diciamo, lo così, cioè per me è uno scrittore importante. Quindi vi raccomando vivamente di leggere Khaled Hosseini, Mille splendidi soli. Emozionatevi, divertitevi e leggete. E preparate anche un fazzoletto, perché io vi posso assicurare che quanto pianto dopo aver letto sto romanzo, non so nemmeno io il perché, però forse perché è lo stile di Comini che probabilmente è fatto così, quindi non sono però riuscita a leggere tutto ciò che ha scritto dopo, proprio per il timore di continuare a piangere dopo averlo letto, quindi però vi consiglio di leggerlo perché ne vale la pena. Tra l'altro questa è la settimana dedicata agli innamorati, venerdì si festeggia, per quanti vogliono festeggiarlo ovviamente, il San Valentino. E, no, ecco, Ivana dice, Fiordaliso dice di no, quindi non lo festeggio ogni giorno. Piuttosto. Però è molto più bello, ma per quanti magari si dimenticano, almeno c'è quel giorno, e perché no. E aspettiamo invece, vedo già Dani M pronto per il secondo ospite della serata, Franco Latorre. Vi ricorderete, è stato già nostro ospite proprio in apertura di stagione. Franco ci aveva raccontato della sua avventura, del suo viaggio, dei suoi viaggi a Gerusalemme. Vi ricordate probabilmente che proprio in chiusura di trasmissione Franco ci aveva accennato alla possibilità di iniziare, di lanciare a Bruxelles delle lezioni dedicate alla legalità. Ebbene, dalle parole ai fatti, Franco sarà qui a Bruxelles proprio lunedì prossimo, lunedì 17 febbraio alle ore 18:30. presso la libreria Piola, proprio per iniziare il suo ciclo di lezioni a un tema che è lui molto caro. E questa sera ci parla anche di quel giorno, storia di vittime delle mafie nel racconto dei loro familiari, a cura di Anna Maria De Luca. Franco, benvenuto a Bruxellando, a Radio Alma, anzi, bentornato! Grazie, grazie a voi per l'invito, la prima volta che siete trovati in questo mare. Assolutamente, infatti siamo qui, ci riparliamo ancora, anche perché in chiusura di trasmissione proprio ci eravamo salutati auspicando che potesse esserci un ciclo di lezioni dedicate alla legalità, ed ecco che dalle parole si va ai fatti, e vi consiglio quel giorno, perché sono più storie che sono state raccolte nel tempo, che raccontano anche di nomi dimenticati, di persone che purtroppo hanno perduto la vita proprio a causa di alcuni problemi che sono ancora assolutamente irrisolti in Italia. E comincio proprio magari con la prefazione, perché credo che sia molto interessante. La prefazione dice proprio così: mi capita spesso di incontrare gruppi di giovani nelle scuole, negli oratori, e di raccontare la storia di mio padre. E vi ricordo che a scrivere è Stefania Grasso, col convincimento che la memoria, sia un dovere per chi ha un'esperienza di vita come la mia. Scusate, però l'emozione quando leggo queste parole è molto forte. Ricordare la vita dei nostri cari che non ci sono più, di tante brevi, semplici ma importanti vite, fa sì che non vengano dimenticati e che sopravvivano alla loro morte, che il loro sacrificio non sia stato inutile, ma fondamentale per la vita di ognuno di noi. Dimenticarli sarebbe la vera fine. Franco! È il bello della diretta. È il bello della diretta, beh, sai, siamo lontani, tu sei a Roma, noi siamo a Bruxelles, e quindi di tanto in tanto c'è qualche interruzione. Allora, Franco, parliamo prima di quel giorno e poi magari ci dirai qualcosa in più su questo ciclo di lezioni che terrai alla libreria Piola. Quel giorno è un bel quaderno di Libera, realizzato insieme a Narcomafie ed edito dal gruppo Abele. Sto parlando della principale organizzazione per i diritti e contro le mafie, di un bel periodico che si può consultare per chi fosse curioso, una rivista straordinaria di analisi e di indagine su, diciamo, sui fatti criminali e sui poteri criminali, sul sito di Libera, quello stesso, e il gruppo Abele è una storica organizzazione che da decenni si occupa di cura di chi ne ha bisogno. Veniamo al quaderno. Quel giorno, il giorno in cui un cittadino qualsiasi, una persona impegnata, un magistrato, insomma il giorno in cui la mafia uccide, è il giorno dedicato alle vittime della mafia attraverso il racconto dei loro familiari. È una raccolta straordinaria, emozionante, vibrante, di una dozzina di interviste a persone, passatemi il termine, note e meno note, perché sono centinaia in Italia le vittime del potere criminale di stampo mafioso. Alcune di queste note non solo in Italia, a tutti, alla maggior parte, ma anche all'estero, in Europa, nel mondo. Faccio un esempio fra tutti, con tutto rispetto per tutti gli altri, Giovanni Falcone. Ma accanto a Giovanni Falcone c'è Pietro Sauna, c'è Giuseppe Montalto, c'è Giovanni Lizio, c'è Gaetano Macchitelli, c'è Nicola Ruffo, c'è Serafino Famà, Francesco Borrelli, e con loro altre centinaia e centinaia di persone oneste che facevano il loro dovere, che amavano il loro lavoro, amavano il territorio nel quale venivano e che per i motivi più diversi sono caduti sotto il piombo criminale delle mafie. A loro è dedicato attraverso il racconto dei loro familiari. Infatti è molto bello e sono tante le storie che avete raccolto. Avevo proprio letto in apertura un passo proprio dalla prefazione che è stata scritta da Stefania Grasso. Che tra l'altro anche lei è una... Esatto. Figlia di un commerciante ucciso a Locri il 20 marzo del 1989 perché non cedeva alle richieste estorsive. Leggo quello che scrive Stefania proprio nella prefazione. Mio padre aveva un forte senso di giustizia e pensava che solo lavorando onestamente e comportandosi bene si potesse essere felici. Franco, io ho letto tutte le storie della... raccolte in quel giorno, ci sono due cose che mi hanno colpito. Uno, non solo, come dicevi tu prima, persone meno note, quindi non si tratta soltanto di carabinieri, magistrati, ma anche di persone, diciamo, normali, di persone che per esempio si trovano di passaggio e vedono un'aggressione, difendono la persona ovviamente in difesa e con questo gesto perdono la vita. Persone che invece fanno di mestiere proprio quello, quel giorno non lavorano, sono senza la divisa, eppure rischiano la propria vita a favore di qualcun altro, mentre chi quella divisa la indossa quel giorno resta senza far nulla. E c'è una frase che ricorre molto spesso nelle storie, che è la seguente: quanto labile sia il confine tra il destino e le scelte, nessuno lo sa. E ti assicuro che questa frase mi ha profondamente commosso, pensando veramente a queste persone, a quelle poche di cui ho letto e a quelle tante di cui, come dicevi tu prima, nemmeno noi sappiamo. Vorresti aggiungere qualcosa in merito? Beh, leggendo questo bel racconto fatto di tante storie, intanto non lo faccio perché... di Libera io ho fatto, diciamo, un pezzo della ragione della mia vita, quindi c'è un piccolo conflitto di interessi, però più che legittimo in questo caso, e ci ascolta possa capire. Assolutamente. Ricordare queste persone è un esercizio straordinario che fa bene non solo ai familiari delle vittime per il loro percorso di elaborazione di un lutto tragico, un caro strappato, una persona cara strappata violentemente alla vita e agli affetti, ma anche è propedeutico a quella costante azione di rinnovamento di valori fondamentali, perché innanzitutto c'è la dignità della persona, la persona che non si piega nella sua vita quotidiana, normale, come tutti noi, ai ricatti della mafia, la persona che non si piega nel suo impegno, che magari lo porta a fronteggiare per motivi, diciamo, politici piuttosto che professionali il sistema di potere mafioso, non esita. E allora in questo cerco di rispondere alla domanda. In alcuni casi il confine è molto labile, in altri casi il destino te lo sei costruito. Cioè, quando in un contesto in cui il sistema di potere mafioso controlla le vite delle persone, ergersi contro, ricordarsi che la vita che va vissuta è una vita degna di questo nome, che appunto ti permette di sorriderti la mattina quando ti guardi allo specchio, non di vergognarti per qualcosa che hai fatto, è un modo per scriverlo il proprio destino. Questo non vuol dire che necessariamente chi fa questo poi debba rimanere vittima del piombo mafioso, però ha deciso di costruirsi un destino coerente con gli affetti, con l'impegno, con i principi, con i doveri, con i diritti di un paese sano, di un paese democratico che afferma nella sua Costituzione appunto diritti fondamentali che il sistema di potere mafioso vorrebbe cancellare, che avverte come un ostacolo. Assolutamente. Tra l'altro c'è un bel passaggio sempre in uno dei racconti in cui viene chiesto: andare via da casa mia, risponde Vittorio. E perché? Noi siamo persone oneste, non siamo camorristi. Sono i camorristi che devono andare via da qui, non noi. Questa frase pure... E continuare quel racconto è il modo perché effettivamente l'ambiente in cui si vive si svuoti di quel buio, di quell'oscurità, di quella negazione dell'esistenza degli altri, che è quello che il potere mafioso vuole, di cui ha bisogno per nutrire i suoi interessi. Assolutamente, tra l'altro proprio in un altro passaggio viene detto che se purtroppo tanti fatti restano irrisolti è proprio perché non c'è la volontà di voler giungere a soluzione. Franco, di che cosa ci parlerai allora il 17 febbraio? Quale sarà il... Intanto di questo, dei nomi e dei numeri, per non diciamo fare un elenco freddo, ma perché dentro quelle storie, dentro quei numeri c'è una memoria, ma c'è anche una cultura, perché sicuramente questo sistema di potere mafioso, non lo voglio tenere distante da me chiamandolo quello, si combatte grazie allo straordinario impegno quotidiano della magistratura e delle forze dell'ordine, si batte con un impegno coerente da parte di chi ha la responsabilità di guidare politicamente, istituzionalmente, o economicamente questo paese, le classi dirigenti, ma anche con l'affermazione di una cultura dei diritti, della Costituzione, che scaccia l'aggressione mafiosa, scaccia il tentativo di infiltrare. Quindi innanzitutto di questo. Di che cosa stiamo parlando? Certo. Stiamo parlando di bande criminali, per quanto ben organizzate e agguerrite? No, non stiamo parlando di questo. Se andiamo in giro per le nostre città cercando di individuare chi, semi particolari, i Baffetti, la Coppola, la Lupara, il Finello, ci possa, diciamo, confermare quella rappresentazione un po' folcloristica che continuiamo a conservare dentro di noi, perché complici